La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Hannover. Il 24 aprile Obama è volato da Angela Merkel. Visita la fiera dell'industria, avvitando accuratamente il padiglione della Volkswagen. Incontro bilaterale al castello di Herrenhausen. Conferenza stampa. Obama ha dichiarato: il mondo e gli Stati Uniti hanno bisogno di un'Europa forte, prospera e democratica. L'Unione Europea, ha spiegato, era un sogno per pochi ed è diventata una speranza per molti. Ad ogni suo passo ha difeso la libertà e gli Stati Uniti sono al suo fianco. Io credo nell'Europa unita. Questo continente, ha aggiunto, nel XX secolo era in costante conflitto. La gente moriva di fame, le famiglie venivano separate. Ora la gente vuole venire qui esattamente proprio per quello che avete creato. Vi sono genitori pronti ad attraversare il deserto, il mare, per dare ai propri figli quelle cose che noi non dobbiamo dare per scontate. Dobbiamo credere, ha detto ancora Obama, nella nostra capacità di forgiare un futuro migliore. E poi, ancora ad Angela Merkel, sei dalla parte giusta della storia, esprimendo più volte la totale fiducia degli USA in una partner come Merkel per tutte le sfide da affrontare. Stucchevole, eccessivo, sopra le righe. Barack blandisce Angela. Anche perché queste parole sono in contraddizione con gli obiettivi e il ruolo che gli USA, che si pongono come stato del capitale e come depositari del dominio imperiale, hanno destinato all'Europa, vale a dire quello di un polo imperialista regionale e subalterno alla loro politica unilaterale di dominio. L'attacco che gli USA hanno portato all'Europa da molti anni ha le radici profonde nel disprezzo della democrazia e dello Stato sociale iscritti negli Stati europei. Kissinger consigliava già agli europei di esercitare le loro responsabilità regionali nel quadro mondiale di un ordine globale determinato dagli Stati Uniti. Chiaramente uno dei nodi è quello del TTIP, il Trattato per lo Scambio Commerciale USA-Unione Europea. Trattato assolutamente devastante per l'Europa, che dichiarerebbe la fine di ogni autonomia e indipendenza politica, territoriale e economica dei paesi europei. Praticamente il governo diretto delle multinazionali, un passaggio epocale, la fine della borghesia così come l'abbiamo conosciuta e l'instaurazione dell'iperborghesia imperialista dai tratti aristocratici in cui i paesi sono colonie e i cittadini sudditi. In Germania la resistenza al TTIP è forte, ci sono state manifestazioni di massa, la Germania perderebbe ruolo, economia, ricchezza e indipendenza, ma anche noi. Speriamo che il prossimo 7 maggio, alla manifestazione nazionale che è stata chiamata qui da noi, ci sia consapevolezza e partecipazione. Obama infatti è partito da qua. Dobbiamo andare avanti nel negoziato sul TTIP, ha detto. Siamo d'accordo nel voler rendere più forte l'accordo nella zona euro. È indiscutibile che il libero commercio abbia rafforzato l'economia americana e portato enormi benefici ai paesi che vi sono coinvolti. Capisco chi teme la globalizzazione perché vede le fabbriche chiudere e i posti di lavoro trasferiti altrove, ma è necessario restare competitivi nel momento in cui aree come Asia e Africa stanno sviluppando le rispettive economie. Poi banalità sulla questione climatica e ambientale, bla bla bla sui migranti. Angela Merkel non ha risposto se non con frasi di circostanza. Il TTIP? Non ci abbiamo ancora pensato. Il ministro tedesco dell'economia Sigmar Gabriel ha detto che il trattato è destinato a fallire se gli Stati Uniti non faranno delle concessioni. Ma Barack Obama non è andato a parlare a quattro occhi con la cancelliera per questo. Sa che il Partito Socialdemocratico tedesco all'ultimo congresso ha dato suo pieno assenso al TTIP. Obama è volato da Merkel per la guerra. Chi dovrebbe arginare e subire un eventuale conflitto con la Russia e la Cina se non l'Europa? Le scelte della Germania sul fronte orientale sono importantissime per gli USA, perché in effetti la Germania è l'Europa. L'Europa dovrà votare a giugno sulle sanzioni alla Russia. Ma Angela anche qui ha risposto denunciando le violazioni del cessate il fuoco in Ucraina e ribadendo la necessità che siano rispettati gli accordi di Minsk. Le sanzioni contro Mosca dovranno essere rimosse con una soluzione politica dell'est dell'Ucraina e non armando la parte occidentale del paese. È questa la questione di fondo. L'Europa è al centro di uno scontro che deciderà il suo destino. Il vertice a 5 del giorno dopo, con David Cameron, François Hollande e Matteo Renzi, è stata pura routine, perché l'Inghilterra è la quinta colonna americana in Europa, la Francia ha ridicole velleità neocoloniali, l'Italia è già un governatorato, è la Germania l'ago della bilancia. Un indizio di quanto si siano spostati gli equilibri in Europa dall'inizio della presidenza Obama al suo ultimo viaggio in Germania è che l'incontro a 5 si sia tenuto qui e non a Londra, dove Obama era appena stato. L'Europa ha solo da perdere un conflitto mondiale. In caso di guerra potrebbe essere la fine della nostra storia.